forse stasera ci rivediamo con calma, tanto che ti senti pure che qui non rende. Ma non hai fame? Adesso no, magari più tardi. Più tardi? Che ci facciamo provare, facciamo ruotare le persone con la porchetta in mano? Lorenzo, dai, fammi il piacere. Abbiamo un compagno di compagnia, dai, che fai venire, ma torno anche a te. Mi sono dimenticato il silenzioso. C'è quanti messaggi. Verina, ho 50 messaggi. Guarda, Franza, mi scritto come mio papà. Che dite? Dai, cominciamo a votare lì. Dai tu, tanto non mangi, registrati da sola, e poi la sua isola se la sognano una volta così. Sono musulmani. Scusa. Sai che in piazza c'erano i tuoi? Che sono i miei? Sono un gruppetto che manifesta contro il referendum. Te l'ho già detto, non sono i miei. Ma li ha ripresi il TG stasera, si vedono in televisione. Hanno avuto il loro momento di celebrità. E ho pensato se è tutta pubblicità per San Berriano. Va bene? Dovremmo trovare un inno però, Ho ritrovato una poesia che è stata scritta a San Berriano un secolo e mezzo fa. Potremmo farla mettere in musica dalla filarmonica. Oppure puntiamo più in alto, chiediamo a cantare che piacerà. Dico, potrebbe essere il suo genere. Sanno che volevi dire? Ecco, mi hai detto che è passato, non ti interessa più. Di quello che devi dire oppure stai zitto. Tocca a te. Esercita il suo diritto all'astensionismo. Io voglio dire, ho detto a Feroni, tu questa rocchetta la dovresti brevettare, ma ti dico, guarda, il rapporto che c'è tra cotene e bambina, che non è mai né troppo magra né troppo grassa, anche qui è tutto giusto. Guarda, io la proposta scandalosa che devo fare, secondo me, sullo stemma di San Pentiano, al posto di due pesci, ci mettiamo il tuo panino. Sto facendo. Perché non lo vedi? Non fare il credito, non si può pallottolare una scheda elettorale. Ah, no? No, perché adesso questo è nulla. D'accordo. Lo segniamo sul registro. Sembra di essere alla gita scolastica, prima i panini, adesso gli spetti. Oggi Lorenzo può dire quello che vuole. Che fra qualche mese anche lui cambierà idea. Lorenzo. Il nostro Lorenzo si dovrà ricredere, che vedrà con i suoi occhi tutto il bene che verrà fatto per la nuova San Berriano. Risparmiaci la propaganda, abbiamo già votato. Ma che carità. La vera forza sta nell'identità dei popoli e non in queste ammucchiate che ci costringono a fare da anni. Poi è solo questione di tempo perché ognuno lo capisce. Quei tempi propri. Non sta a corto di argomenti. È un segno. L'inizio della sua trasformazione perché presto anche lui sarà pronto per la nuova San Berriano. Lorenzo, io ti prometto che nessuno ti rimprovererà i tuoi errori perché noi daremo a tutti quanti non un'altra possibilità. Adesso il paese è pieno di giornalisti, no? Tutti che vogliono sapere, tutti che vogliono curiosare, se ne vede che ne arrivino tanti altri, ma andrà a finire che questi due saranno quelli che ci guadagneranno di più. Poi, se quello che faremo continuerà a non piacergli, potrà riprendere a fare i suoi propositi di rivoluzione. Magari al bar, davanti a una birretta, i suoi vecchi amici, non proprio tutti, perché qualcuno l'ha già perso. Complimenti Corrado, bella intervista, siamo con te. Sapete chi me l'ha scritto? Prova a indovinare. Giovagnoli, quello con cui lui un tempo cospirava.

sono uscito. Sono uscito da solo. Io non c'ero. Sono rimasta a casa tutta la notte. Mamma mi accarezzava la testa per farmi dormire, ma non mi sono riaddormentata. Sei tornato per la mattina. Ci hai detto dell'incendio alla scuola? Di Federico? Che era morto. C'erano delle voci. Solo grazie al suo suono. Non c'erano prove, era un'accusa troppo grossa da sostenere senza farmi più testimoni. Perché provate a parlare? Lorenzo, provate a farlo ragionare, non sono riuscito a fare chiarezza. Mi ha risposto in modo duro. Mi ha arrabbiato. Sono sollevato che Lorenzo si sia deciso a confessare. Ci sono voluti 10 anni, ma c'è da capirlo. Ci vuole coraggio ad ammettere quello che ha fatto. Spero ne teniate conto. Io lo perdono. Nella nuova San Damiano non c'è spazio per il rancore. Andiamoci qualche volta a mangiare. All'agriturismo di sua sorella.